in primo piano. Ovviamente il piano di salvataggio della zona euro dopo la crisi greca, questo è il tema che trovate in apertura su tutti i giornali, perché la situazione è davvero difficile dal punto di vista economico e finanziario. Un piano d'urto fino a 600 miliardi, questo è il titolo del Corriere della Sera di apertura. Per Repubblica, Unione Europea, piano anticrisi da 600 miliardi. Euro scudo da 600 miliardi, questa cifra la troviamo insomma ricorrente, questo è il titolo di apertura della Stampa. Mentre c'è chi punta anche come scelta grafica l'unità, c'è la bandiera dell'Unione Europea con le stelle gialle su sfondo azzurro, su sfondo blu, stelle cadenti. Per il giornale l'euro è in guerra, l'Italia ce la farà. Per il Messaggero piano salva stati, stretta finale. L'apertura del Sole 24 Ore, come sapete l'edizione del lunedì, tra l'altro tocca un tema che la nostra Deborah Rosciani approfondirà alle 8:15, alle 8:15 in soldi e dintorni. Per le multe, regole tutte nuove. È stato approvato il codice della strada, tantissime novità per quel che riguarda le multe degli italiani. E dunque, visto che le multe le becchiamo tutti, siamo tutti molto interessati a capire che cosa cambierà. Come detto però, la situazione è difficile e quindi il Consiglio Ecofin straordinario dei 27 ministri finanziari dell'Unione Europea riuniti a Bruxelles ha deciso delle cose importanti. Il maxi fondo, il maxi piano per sostenere l'euro, 600 miliardi, potranno arrivare fino a 720 miliardi, insomma anche con gli aiuti del Fondo Monetario Internazionale. Di questo intanto si occuperà Oscar Giannino alle 9, quindi io non vi do tantissimi particolari che trovate comunque sui giornali, ma magari leggerò qualche intervista. Poi Oscar Giannino approfondirà. Gli elementi fondamentali sono questo piano. Un altro elemento importante è che la Gran Bretagna ha fatto il gran rifiuto di Londra, scrive il Corriere della Sera. Cavatevela da soli. La Gran Bretagna non è nella zona euro. Non c'entrerà neanche mai, molto probabilmente, e soprattutto la Gran Bretagna in questo momento vive anche questa situazione politica molto strana. Ci sono state le elezioni, ma fatto abbastanza inconsulto per la politica britannica, non c'è un governo in questo momento perché nessun partito ha ottenuto la maggioranza assoluta. Dunque ci sono le consultazioni, che se da noi sono una cosa normale, in Gran Bretagna no. In genere il giorno dopo le elezioni c'è già un governo perché vince un partito, c'è un bipartitismo forte. E questa volta no. E quindi la Gran Bretagna è il gran rifiuto della Gran Bretagna. Ma come detto ci sono molti commenti. Interessante per esempio la conversazione che Dario Fertilio del Corriere della Sera fa a pagina 6 con Gianni Toniolo, che insegna all'Università Luiss di Roma ma anche negli Stati Uniti. La lezione di Weimar, vale a dire la Repubblica di Weimar, una delle pagine più nere della storia europea, mondiale, anche perché poi da lì ci fu l'avvento del nazismo. Questa mattina, aprendo la sua lezione di storia economica alla Luiss, Gianni Toniolo terrà più o meno questo discorsetto agli allievi. Studiate, perché su quel che sta succedendo in queste ore nel prossimo futuro si scriveranno tonnellate di libri. Si fa un bel pezzo di storia d'Europa che resterà incisa nella memoria collettiva. E Gianni Toniolo poi riepiloga un po' quelle che sono le grandi crisi. Dalla crisi scoppiata 2 anni fa, per esempio, Toniolo ha sottolineato le differenze col 29, il 1929, quando crollarono insomma le borse a partire dagli Stati Uniti. Le banche centrali nel 2008, dice Toniolo, hanno tratto frutto dall'esperienza, giocando un ruolo essenziale nel fornire al sistema la liquidità necessaria. Oggi invece l'incendio greco mi ricorda un altro periodo drammatico, eccolo qui, 1931, la Germania non più in grado di far fronte al pagamento degli interessi e delle rate dell'enorme debito estero, Berlino senza credibilità tra i creditori. È quello della Repubblica di Weimar, ma oggi per fortuna non c'è nessun Hitler all'orizzonte e neanche, io credo, ai complotti, niente grandi vecchi, niente pirati cinesi. Certo però bisogna fare le riforme. Questo è il grande tema per Toniolo, dice il futuro dell'euro comunque c'è, a meno che qualcuno non impazzisca, la nostra moneta ce l'avrà certamente un suo futuro. L'Unione Monetaria Europea ormai è solida, è difficile da smantellare, tutt'al più certo possono riuscire a provocare una sensibile svalutazione, chi? Gli speculatori. Dello stesso tenore è l'intervista che Giacomo Vaciago, economista, ha fatto a Repubblica. Bisogna capirsi, questa crisi la chiamiamo finanziaria, ma è una crisi reale, dice Vaciago. Quello che è successo è stato un eccesso di debito che è andato su spese inutili e sui consumi. Insomma, la lezione anche per Vaciago è questa. Noi guardiamo la finanza, ma è la politica reale che ha fallito. La finanza, sostanzialmente, la vediamo come la fata morgana che risolve i problemi, invece li sposta solo avanti nel tempo, ma non li risolve. Quello che serve dunque è innovazione, produttività, taglio alle spese inutili. Basta fare debiti per essere più ricchi, bisogna indebitarsi per produrre. L'Europa non deve essere un ospedale o un sanatorio, ma un posto dove tornare a crescere. Altrimenti, tra 5, 10, 15, 20 anni, chi lo sa, ciclicamente, diceva Ciago, ci ritroveremo, se pensiamo di risolvere tutto con la finanza, ci ritroveremo a gestire la prossima crisi. C'è anche un colloquio che l'Unità fa, uno dei padri indiscussi fondatori dell'Unione Europea, insomma un europeista convinto, vale a dire Romano Prodi. Nini Andriolo a pagina 4 e 5 fa un colloquio con lui. Dice Prodi: ci vuole più Europa, ce lo deve dire Obama? Anche una critica, insomma, alla Germania, per esempio, che ha molto badato soprattutto alle elezioni Angela Merkel, le elezioni che peraltro ha perso ieri, invece che intervenire subito, cosa che andava fatta secondo Romano Prodi. Se presa per tempo, infatti, dice Prodi, questa crisi sarebbe stata perfettamente gestibile, adesso è tutto più difficile. Spero però che non prevalga quell'istinto al suicidio che a volte accompagna il vecchio continente, dove l'interesse generale spesso soccombe di fronte a quello particolare e all'egoismo degli stati nazionali. Ecco qui, insomma, una sorta di tirata d'orecchie a Angela Merkel, che lui non criticherebbe mai, dice Nini Andriolo, sono anche molto amici, ma certo, i governanti che hanno agito tenendo conto non degli interessi di lungo periodo, ma delle passioni del momento. Facendo questa critica, Prodi fa capire a cosa si riferisce, e vale a dire alla Germania. Ora bisogna rassicurare i mercati. A proposito dei mercati, ovviamente staremo tutti a capire alle 9 come apre anche la borsa di Milano, le borse europee, anche perché ovviamente ieri c'è stata una riunione straordinaria del presidente della Consob Cardia per cercare di capire, insomma, cosa succederà oggi. Gli occhi sono tutti puntati ovviamente alla riapertura dei mercati, a capire se questo piano stanziato dall'Ecofin comincerà a vedere i suoi frutti in maniera positiva. Io voglio arrivare alla politica. La politica italiana, ci sono due personaggi che troverete, emerge dai giornali rispetto agli altri. Sono il ministro della cultura Sandro Bondi e il capo della protezione civile, sottosegretario Bertolaso, perché un po' sono gli strascichi di quello che è successo nel weekend. Allora, intanto Sandro Bondi, perché è tornato, perché è nel mirino? Non c'entra la questione, c'entra anche la questione del fatto che non andrà a Cannes per la presenza del film di Sabina Guzzanti, ma non solo. Nel weekend, sempre per l'inchiesta sui grandi appalti della famosa cosiddetta cricca, è finito nel mirino anche Sandro Bondi sui giornali. Perché? Per il progetto di ampliamento del Museo degli Uffizi, un appalto da 29 milioni di euro inserito nelle celebrazioni del 150esimo dell'Unità d'Italia. Direttore dei lavori è stato scelto Riccardo Miccichè. Secondo un'informativa dei Carabinieri del ROS, questo Miccichè non aveva una grande professionalità nel settore, tanto che in passato ha maturato competenze nelle attività di parrucchiere per uomo, donna e bambino. Tanto che il Messaggero, con Mario Aiello, un po' ironizza, dice: messo a capo del direttore dei lavori del Museo degli Uffizi, cosa dovrebbe dovuto intervenire? Con forbici, enne e bigodini? Ebbene, questa accusa, cioè la promozione di Riccardo Miccichè, siciliano, titolare di un'impresa che si occupa dell'attività di parrucchieri, a direttore dei lavori di restauro dei grandi uffizi, ovviamente ha messo, con il placet del Ministero dei Beni Culturali, Ed è qualunque Sandro Bondi ha messo nel mirino Sandro Bondi, che ha risposto con una nota molto dura, l'abbiamo sentita anche il GR24, lo sfogo di Bondi sul Corriere della Sera, a pagina 15. Alcuni quotidiani danno il meglio di sé nell'esercizio di lordare la mia onestà. Appena ho avuto conoscenza delle indagini, ho revocato immediatamente il commissariamento per agevolare il lavoro della magistratura, perché proprio non ho nulla a che fare con faccende e faccendieri di cui si parla. Ha incassato la solidarietà di molti nel Popolo della Libertà, c'è invece chi dall'Italia dei Valori dice chiarisca, insomma. Il ministro Bondi è nel centro un po' delle polemiche per questa nomina e lui ha reagito con questo comunicato molto duro, anche se il Corriere della Sera apre un nuovo filone con Fiorenza Sarzanini a pagina 15. Ecco le consulenze d'oro negli appalti della Cricca. Ecco, ora è nel mirino gli affari sulla costruzione della scuola dei marescialli di Firenze, questo secondo la procura che sta ovviamente indagando. Secondo i magistrati di Firenze c'è un intero capitolo dedicato agli incarichi affidati a professionisti con le consulenze, professionisti esterni, oltre 3 milioni e mezzo di euro. Insomma, Sandro Bondi è nelle polemiche per questa vicenda degli appalti, ma anche appunto per la vicenda che non è ancora finita di Sabina Guzzanti e del suo Dracula che andrà a Cannes, ma Bondi invece a Cannes non ci andrà. Tra l'altro oggi Silvia Ballestra fa un articolo, un suo fondo, insomma, l'ultima pagina dell'Unità, molto molto caustico, in cui dice la vera cultura, cioè se la prendano Bondi e Berlusconi con chi ha composto l'agghiacciante inno meno male con che Silvio c'è, con chi da 30 anni trasmette un'immagine avvilente di donne sempre svestite, e perfino con gli stessi che dal palcoscenico della politica non perdono occasione per attaccare i registi, scrittori e giornalisti. Sono queste le produzioni culturali che stiamo esportando, questi capolavori che ci fanno passare per tanti poveri Borat appena varchiamo una frontiera. Sono queste le opere che offendono e fanno propaganda. Invece, secondo il Secolo XIX, Sandro Bondi insiste in maniera molto dura: a Cannes non ci va, questo ormai è accertato. Ma non solo, attenzione, Dracula Cannes, vendetta del ministro. Sentite che cosa, secondo il Secolo XIX, è un'indiscrezione, chissà se confermata, starebbe pensando il ministro: niente film francesi in gara a Venezia. Ecco la vendetta che starebbe meditando il ministro Bondi a Venezia. Venezia potrebbe tornare utile alla bisogna, visto che a Venezia i beni culturali finanziano la mostra con circa 7 milioni di euro l'anno. Questo sarebbe anche il proposito di Bondi, medita tra le varie cose, insomma, tra le varie ipotesi di una sorta di, tra virgolette, vendetta culturale nei confronti dei francesi, anche perché c'è questo Jacques Lang, no? Il consulente del presidente Sarkozy sulla cultura, che ha detto: Bondi ha una strana concezione della libertà. Ed ecco, questa frase avrebbe fatto scatenare un po' le ire di Bondi, che starebbe meditando per vendetta. Allora noi non ospitiamo film francesi alla Biennale di Venezia. Vabbè, staremo a vedere come va avanti questa vicenda. Intanto un altro uomo sicuramente che trovate molto sui giornali, come detto, è Bertolaso. Bertolaso pensa alle dimissioni. Questo scrive il giornale a pagina 11. Basta con il tritacarne mediatico. Ha fatto questa conferenza anche un po' infelice, no? Con queste battute su Monica, la sua Monica, nel senso la massaggiatrice. Monica Lewinsky a Clinton, no? Ha detto a Clinton: stavo per dirgli, abbiamo un problema con Monica, entrambi. Una frase certamente non felice, che ha creato anche qualche mal di pancia al Ministero degli Esteri. Allora, Bertolaso pensa alle dimissioni, basta con il tritacarne mediatico, scrive Vincenzo Lamanna, è una voce ricorrente, c'è chi assicura che le avrebbe già firmate. Forse non è proprio così, ma insomma, anche Repubblica, pagina 11, Protezione Civile, Bertolaso vicino all'addio. E dovrebbe essere stato già scelto il sostituto, vale a dire Gabrielli, il prefetto Gabrielli, esperto di lotta al terrorismo, direttore del SISDE e poi dell'AISI, cioè i servizi segreti, dal 2006 al 2008, prefetto dell'Aquila in aprile. È stato anche già vicecommissario all'emergenza Abruzzo a fianco di Guido Bertolaso. Allora, queste per quel che riguarda la politica. Per il giornale, caso Cricca. cricca, cioè la cricca, spunta anche Di Pietro. Ci sarebbe anche Di Pietro, almeno in una intercettazione di due persone coinvolte nella vicenda della cricca, tale Fusi, quello presidente della banca BTP, e Bartolomei, un altro, intercettati, citano il leader dell'Italia dei Valori e un Lu, probabilmente Lunardi. Non c'è mica nessun problema, tanto questo è un film belle visto, sono tutti compromessi dal ministro Di Pietro, da Lu, da tutti, non c'è mica da meravigliarsi di nulla, cioè due che parlano dicendo quella è tutta una manica di banditi. In questa telefonata tra appunto il numero uno della BTP Riccardo Fusi e il suo vice Roberto Bartolomei, due parlano, dicono anche di Di Pietro, sono tutti compromessi, ecco, per il giornale spunta anche Di Pietro nelle intercettazioni. Io non ci potevo credere, ma oggi trovate paginate e ancora paginate sui giornali, su che cosa? Su Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Addirittura La Stampa vi dedica due pagine. Oggi il vertice coi figli di Veronica. È un momento amaro. Silvio si scopre addolorato, perché insomma ormai sono vicini all'accordo. Repubblica, tra Veronica e Silvio passi avanti, ma l'accordo non è ancora chiuso. Un'intera pagina. Il Corriere, mezza pagina. Berlusconi, Veronica, si tratta sull'assegno. Il Giornale, un'intera pagina con commento che parte in prima pagina dell'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace. La fine normale del divorzio del secolo. Insomma, se siete un po' curiosi anche di sapere come va a finire, come sta per finire la relazione tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario, oggi sui giornali trovate paginate di tutto. Io passo oltre. Passo per esempio a una notizia, secondo me quella più interessante a mio modo di vedere, del Sole 24 Ore di oggi. E la trovate a pagina 9. Perché? Perché si parla di un tema delicato, vale a dire quello delle intercettazioni. Sapete che c'è un disegno di legge che prosegue all'esame al Senato e allora si parla molto di intercettazioni, come limitarle, se sono troppe, se sono tante, se vanno pubblicate sui giornali oppure no. Il conto delle intercettazioni è molto interessante. Perché? Scrive Andrea Maria Candidi, 120.000 i telefoni sotto controllo, 11.000 le intercettazioni ambientali. Questo sono nel 2009 i dati. Le procure hanno spiato nel 2009 oltre 130.000 bersagli. Perché bersagli? Perché 130.000 bersagli non vuol dire 130.000 persone. Perché vuol dire che magari c'è una persona che ha più telefoni. E allora uno può intercettare due telefonini che appartengono alla stessa persona. Facendo una media, dice Sole 24 Ore, che diciamo facciamo così, due persone possiedono in media tre telefonini, il numero di individui che sono stati intercettati dietro le utenze telefoniche è circa di verosimilmente di 80.000, se si stimano appunto tre cellulari ogni due persone, 80.000 italiani. Io ho sempre sentito dire da dovunque che siamo un popolo di intercettati, siamo in 60 milioni, se sono 80.000 gli intercettati, insomma, un popolo di intercettati proprio no. La fonte è il Ministero di Grazia e Giustizia, ecco, mica una fonte così di poco conto. Il conto delle intercettazioni, pagina 9 del Sole 24 Ore. Come faccio una citazione, se la tosse me lo consente, sulle multe, solo una citazione, l'apertura come detto del Sole 24 Ore, per le multe regole tutte nuove, se volete leggervele con calma le trovate a pagina 2-3 del Sole 24 Ore, se volete ascoltare anche e sapere qualcosa di più alle 8:15, soldi e dintorni, Deborah Rosciani parlerà proprio di multe, tutte le regole nuove per l'approvazione del nuovo codice della strada. Mentre riguardo sempre alla strada, traffico e quant'altro, pagina 19 del Corriere c'è un'intervista al ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo. Attenzione, è interessante perché annuncia qualcosa che potrà cambiare presto per far fronte allo smog in città, visto che Bruxelles ci tiene sempre sotto la lente delle possibili sanzioni. E allora ecco cosa annuncia Stefania Prestigiacomo. Ci saranno dei cambiamenti in vista. Intanto, nelle città dove negli ultimi 3 anni sono stati superati i limiti di polveri sottili, non potranno più entrare i pullman turistici o girare i bus pubblici che non hanno il filtro ecologico. Abbiamo già a disposizione 150 milioni di euro per sistemare tutto questo nelle grandi città: Torino, Milano, Napoli, Bari, Palermo, Roma. Fuori dalle città i mezzi pesanti che non cambiano i filtri o che non sostituiscono il proprio mezzo. Ma anche altri divieti molto interessanti, sentite questo. Per esempio, i camioncini o i camion che trasportano le merci. Quanti di voi in questo momento state ascoltando, state entrando nelle grandi città a trasportare le merci? Abbiamo pensato che è giusto fare come a Londra o nelle grandi città d'Europa: si consegneranno le merci di notte. Di notte, vi dovete alzare presto, lavorare di notte, così da decongestionare l'accumulo di emissioni diurne. Questo per quel che riguarda il traffico. Poi c'è sull'agricoltura, alcuni prodotti altamente inquinanti stiamo sottoscrivendo una serie di limitazioni. Sull'industria c'è il lavoro per le autorizzazioni dei nuovi impianti e sperimentiamo anche sempre di più di ampliare il teleriscaldamento, vale a dire utilizzare il calore degli impianti industriali per riscaldare le città. Ma insomma, via i torpedoni dalle città e i furgoni solo di notte. Queste sono le due grandi novità che annuncia il ministro Prestigiacomo. Mi devo fermare? Sì, segnalo solo pagina 5 del Sole 24 Ore ancora. Tutta quella vicenda che dal comune di Adro è partita: non paghi la mensa, io non ti do il servizio mensa. Sindaci a caccia dei furbi di mense e asili. C'è tutta una pagina su tutti i comuni come cercano di stanare coloro che dichiarano 0 euro per non far pagare poi i figli i servizi primari, tra cui anche la mensa. Allora ci fermiamo.